Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Ce l'avete presente il figaccio? Figaccio per eccellenza, quello che sa di essere un bellone, anche se poi comincia a entrare nell'epoca lievemente âgée dell'esistenza umana, però è uno che ancora sa di piacere e si piace e si guarda intorno e occhieggia e motteggia e fa i doppi sensi anche con la povera signorina che ci porta dolce o salato e la bibita e lo spumantino. Evidentemente questo è un uomo che pensa di sapere tanto del mondo delle donne, anzi pensa che le donne non aspettino altro che lui le degni della sua attenzione. Vediamo un po' di saperne di più. Come è cominciata questa storia, diciamo, di lei, uomo disponibile a allacciare rapporti con donne? Che non è poi così semplice, per molti è una conquista, una guerra, coltello fra i denti da quando comincia l'età in cui ci si accorge appunto che le donne sono diverse. Per lei è stato facile, mi pare. Ma per me è cominciato relativamente tardi, nel senso che io per anni, diciamo, sono stato al mio posto, ecco. Poi è successo che incontrando, forse è stata quella la persona giusta, la donna giusta, mi è scattata proprio il desiderio di saperne sempre di più. E cos'è, ecco. E quindi cosa è successo in pratica, in concreto? Ma in concreto ho conosciuto una donna che mi ha fatto capire che il sesso non era solo lui sopra e lei sotto, ecco, c'erano tante sfumature. Vabbè, ha scoperto una donna fantasiosa, questo poi accade a tutti, non è, siamo nella norma. Però questo ha tirato fuori il master che c'era in me, ecco, diciamo io ho iniziato e sono tuttora un master. Master in senso di rapporti sadomaso in questa cosa qua? Sì, master vuol dire dominatore, maschio alfa, diciamo l'uomo che nel rapporto gioca a fare... Fa il brutale, diciamo, ecco. Come? Fa il brutale, così. No, non necessariamente, a me interessa più la parte, la dominazione psicologica. Vabbè, un dominatore, ma come funziona? Uno cosa fa? Se lo mette sulla maglietta, se lo scrive, apre un sito internet, come fa a far sapere al mondo che lei è un dominatore? No, semplicemente quando conosci una ragazza, nel discorso butti delle esche qua e là, e le donne che non sono stupide capiscono. Ma no, diciamo semplicemente che... quelle che cercano un dominatore sono anche quelle che non vogliono un dominatore, molte. No, ma difatti lì cade il discorso. Per come la vedo io, le donne che non hanno avuto problemi nell'adolescenza con maschi che le hanno, diciamo, maltrattate, nel gioco a loro piace essere dominate, ecco, quasi tutte. Solo che non tutte erano fuori questo aspetto. Ah, secondo lei, diciamo, in generale è una caratteristica propria della donna essere domina? Può essere, non lo so, non ho esperienza di questo. Beh, comunque lei ha trovato, diciamo, un'area di attenzione sul fatto che, ma come funziona l'approccio? Si fa capire, diciamo, guarda, se vuoi io posso essere dominatore, poi non so cosa faccia il dominatore. Lega, picchia, cosa deve fare? Non lo so. No. Non lo so, domando. Poi una cosa psicologica, come in delle sfumature di grigio, che ne so. Esatto. Ah, ecco. Quello è quel film lì che piace. Tutta una cosa di testa, allora, quindi. Per me è una barzelletta questi lì. Comunque. Ma lei deve essere lei è altrettanto figo, bisogna essere tutti vestiti bene, con l'elicottero. No, assolutamente. Quella è il film, però no, nella verità, in realtà le donne lì ti parli proprio da cervello a cervello. Sì, ma però non è che poi le può portare camera e cucina, e una volta che gli ha fatto capire chissà quale paradiso con lei scoprono, sarà attrezzato un angolino carino, penso, no? No. Allora, di mio la location ce l'ho, ma non certo a casa mia. E com'è la location? Come si arreda la location di un dominatore? Questo è interessante. Si chiama Dungeon. Ah, la sala di tortura, quindi. Sì, è una location con degli attrezzi, ma ripeto... Quali attrezzi? Quello è stata adibita così, ma non è la mia. Il gioco dominante si può fare anche in una cucina, appunto, in un Sì, ma salotto, si affitta. Se io volessi, per assurdo, mi chiede un'amica, guarda, mi sono svegliata stamattina, voglio essere dominata. Lo affitto il dungeon? Si affitta? No, nel mio caso no, me lo danno. Ah, l'hanno in uso, incomodato d'uso. Sì, lo danno in uso. Ma cioè, però... scusi, no, i particolari sono importanti, sono tutte, cioè la Vergine Norimberga, le corde per appendere, il cavalletto, sì, tutto. C'è tutto, ma ripeto, non uso quegli attrezzi io, anche se la location è quella. E comunque funziona così, io non cerco nessuna, sono loro che vengono da me, perché la voce si è sparsa e diciamo sono anni che mi diletto in questo mondo. Vabbè, diciamo il suo hobby è fare il dominatore a richiesta. Ma allora, quello è un aspetto, in realtà io faccio altro, io faccio provini alle donne, faccio provini con tanto di sessione fotografica e recensione. Cioè un casting di ma per cosa? Per fare le attrici, per cosa? No, non necessariamente, per donne che vogliono esibirsi, possono essere già pornostar affermate, possono essere anche casalinghe di Voghera, non ha importanza, vengono da sole, vengono accompagnate, vengono di nascosto, si fa appunto questo provino. E cosa ci fa la casalinga con le sue foto zozze? Allora, non se le può fare a casa da sola con lo smartphone? Allora, chiariamo una cosa, le foto vengono pubblicate sul sito e la gente le va a vedere, alcune vengono pubblicate sul sito, diciamo una ventina, la sessione intera è dentro il sito in una sezione a pagamento, per cui lo scopo è quello lì. Le ragazze cosa ci fanno? Le ragazze famose, già famosette, lo usano per pubblicità. Ma le altre, quelle non famose? Le altre lo o condividono con i loro mariti, fidanzati, questa esibizione, da cui poi può derivare altri contatti con persone. Ah, per fare, diciamo, per entrare nel giro degli scambisti, queste cose qua, penso. Esatto, per entrare alla grande nel giro degli scambisti. Ma queste cose sono, diciamo, le può vedere chiunque pubblicamente oppure... Sì, no, il sito è libero. Ma non hanno paura, diciamo, della loro qualche maniera di che qualcuno le riconosca? Allora, chiaramente le pornostar sono... Che si vede bene, quello è il loro lavoro, certo. Più le vedono meglio è. Le altre invece viene coperto il viso, viene photoshoppato qualsiasi tatuaggio, cicatrice, piercing che loro non vogliono far apparire. E basta, cioè, si mascherano, quindi, diciamo, il divertimento è dire guarda, va a vedere in quel sito, ci sono io nuda e sì, il marito è contento, il fidanzato è contento. Sì, diciamo che è nuda in azione anche. Ah, in azione. Ma lei fa anche la parte, diciamo, il supporto fisico, poi ce lo mette lei? Sì, ce lo metto io, il colpicino ce lo metto io, per cui è una sessione fotografica che parte da delle foto statiche dove la ragazza si mostra prima vestita e poi si spoglia e va a finire in una sessione hardware propria. Vabbè, evidentemente se ci sono persone che questo gli piace farlo, ha trovato una maniera di far contenta una parte dell'umanità. Sì, paradossalmente la domanda che di solito mi pongono è ma dove le trovi tutte queste qua? Già, me lo domando anch'io, dove le trovo? Ecco, non le trovo, mi cercano loro, ecco. Diciamo che questa cosa succede ormai da 10 anni, per cui a Milano dove sono la gente... Allora, mi descriva nella maniera possibile il classico shooting, cioè bussano, si presentano chi, due persone, di solito come sono, timidi, imbarazzati? Allora, può esserci la diciottenne timida, può esserci la quarantenne cougar cosiddetta, o che vuole, insomma, che si presenta già in tacchi a spillo, già attrezzata, e diciamo, minigonna. Oppure, appunto, per conto ci può essere la diciottenne, la ventenne, timidissima, che viene lì magari col ragazzo, magari da sola, magari di nascosto, la moglie che viene lì perché vuole una botta di vita, diciamo, vuole... Io personalmente chiedo sempre, ma chi ti ha spinto a venire qui? Perché sono io stesso il primo a essere... Stupito. Sorpreso, sì, di queste cose, però è un continuo, il mio telefono squilla parecchio. Ma quando vengono anche mariti e fidanzati cosa dicono? Che parte hanno in questa sorta di set? Allora, può succedere che il marito sia il cosiddetto cuckold, cioè guardone, diciamo, voyeur nel confronto di sua moglie, e anche lì si dividono in due categorie. Ci sono quelli che vogliono vedere perché magari hanno, parliamoci chiaro, sono piccolini e vogliono vedere la moglie giocare con una persona. Hanno loro dei problemi, diciamo, di micropenia, ecco. Sì, esatto, diciamo, vogliono... Sono problemi anche quelli, mica è uno scherzo. Quindi fanno suo favore alla moglie, cioè ogni volta tanto. Esatto, sì, esatto. Oppure... A forza di andare sempre con la 500, affittiamo una volta la Mercedes, ti faccio fare un giro. Esatto. Diciamo, questi sono le... È altruismo. Sì, alle volte sì. È il cuckold classico che si medesima in me, diciamo. Vabbè. Penso io. Poi si accontenta, gode, che discorso, lo dice anche il proverbio. Sì, ci possono anche essere i cuckold magari omosessuali latenti che si medesimano nella moglie, questo non mi interessa. Vabbè, sono fatti loro. Però diciamo che di solito si mettono lì in disparte e guardano, molte volte sono loro stessi che fanno le foto. Vabbè, tornano a casa con un... E sono i primi che mi contattano di solito, se no può succedere che mi contatta anche la donna stessa, ecco. Dipende da quanto è già coinvolta o vabbè, meno, se si è ecco. Trovato un bel giro, diciamo, non si annoia, è un hobby che tutto sommato le occupa il tempo. Ma lei non si è stancato, non si è stufato un po'? Alla fine penso sia sempre la stessa cosa, no? Guarda, sinceramente... Allora, tutti quanti mangiamo tutti i giorni e nessuno si stanca di mangiare. Diciamo che qui è come andare al ristorante. Non puoi stancarti di un'attività dove ogni giorno, o diciamo sicuramente ogni settimana, ti chiama una ragazza, una donna e ti dice vorrei fare il casting. È impossibile stancarsi. Cominciano a mandarti le foto, cominciano a... Diciamo, vabbè, ha trovato la maniera divertente, tutto sommato. Stuzzicarti è davvero difficile stancarsi. Il problema sarà quando non tirerà più la pompa, detto in parole povere, perché gli anni passano per tutti, alla fine vabbè farà le foto, continuerà a fare le foto, troverà un assistente, non lo so. No, allora assistenti sì, ne ho già pronti tanti che vorremmo prendermi in posto. E lei fa il regista e trova gli assistenti, il problema. Diciamo che finché vinco gioco, mettiamola così. Poi vabbè, è ovvio, chiaro, il tempo passa per tutti, nessuno ha intenzione di andare avanti all'infinito. L'ultima però... cosa, poi ci lasciamo che devo scendere, ma le è mai capitato... Certo. Di trovarsi di fronte a una situazione per cui dice guarda, forse è meglio che le foto non te le fai per oggi? Sì, mi è capitata la situazione in cui una coppia è venuta e lui, capivo che era lui che voleva sta cosa e lei non era molto per era forzata, aveva forzato la mano. E quindi gli ho detto no, guarda, no, perché io voglio sempre parlare con lei da sola prima, quando vedo, capisco che parla solo lui e lei magari sta lì a testa bassa, quindi guarda, fammi parlare un attimo. Beh, diventa di quel punto diventa un sopruso, una sopraffazione. Non è difatti, gli dico assolutamente no, come per contro mi è capitato una cosa del genere, questo più quando facevo, diciamo, ho avuto un passato da gigolo, ecco. Ah, sì. Non ti sei negato nulla, proprio nulla, vabbè. No, Che hai fatto? Dai che devo scendere. Mi è capitato una coppia giovanissima dove c'era proprio questa situazione, capivo che era lui che parlava e lei... Però io ho parlato con lei e lei mi ha detto no, facciamolo, al che abbiamo cominciato così, lei era molto timida, lui si è seduto e guardava, a un certo punto quando ho visto che insomma le cose stavano prendendo proprio il piede che lui voleva, evidentemente, voleva fino a quel punto almeno, si è alzato e ha detto basta. E lei lì gli ha detto no, adesso ti siedi e guardi così. Lui diceva non gioco più, lei invece no, adesso che ci sei. E lei ha detto andiamo no, adesso andiamo fino in fondo, stai lì e guardi. Vabbè, un'altra volta ci pensa prima, sì. Io devo scendere, buon viaggio, ciao. Ciao. Devo dire che in tanti mesi, anzi anni ormai, di indefesso viaggio in treno, non mi era mai capitato di vedere una signora che prima di sedersi apre, sciorina un foulard, lo appoggia sul sedile e poi ci si siede sopra. E poi occupa con i suoi oggetti tutti i sedili attorno, nella vana speranza che nessuno possa sedercisi. Beh, cos'ha questa donna? Evidentemente una sorta di radicale, profondo, viscerale, genetico disprezzo, intolleranza per il genere umano. Persona interessantissima. Mi sembra che lei abbia fatto una scelta di non frequentare più il genere umano o qualcosa del genere. Direi quasi di sì. Ma è stata costretta questa scelta o una scelta libera e volontaria e leggera? Ma io penso sia una questione caratteriale. Io mi allontano ancora di più perché sono piuttosto refrattario a determinate condizioni umane. Nel senso, mi vorrei spiegare meglio. Ho difficoltà a relazionarmi, ho sempre relazionato con persone, tra virgole, non fraintenda, di un certo ambiente con i quali potevo colloquiare in un certo modo e potevo frequentare determinati posti. Ora la situazione è peggiorata perché sono cambiate le mie condizioni, soprattutto economiche, per cui sono pressoché circondata da persone semplici, dalla normalità. Sì, però mi perdoni se la interrompo maniera subito, ma non posso fare a meno di dirle, ma... Il livello di profondità di una conversazione, di una frequentazione, mica è dato dal potere d'acquisto. Anzi, diciamo, laddove ci sono più soldi, ci sono più cafoni di solito. Non capisco bene l'equazione vita più austera e quindi non posso frequentare le persone, ma ci sono persone amabilissime che si possono frequentare senza necessariamente mettere la carta di credito sul piatto, no? No, certamente, sono perfettamente d'accordo, però guardi, io sono una che vive la strada, diciamola così, uso i mezzi, quindi sono caratterialmente portata a osservare le persone e purtroppo, ma le dico purtroppo, giudicarle dall'apparenza. Ora, a volte, dico me stessa, approfondisci, dai un'opportunità alla persona. Io mi rendo conto che ho proprio difficoltà di relazione, non è questione di carta di credito, perché è chiaro, anch'io ne ho conosciute di persone con carta di credito e cafoni, è proprio una questione di mia personale. Cioè non le piace la gente, come la vede non le piace, non le piace proprio la vedere. Sì, esatto, più o meno, guardi, lei ha centrato esattamente il problema, come la vedo, da come è vestita, da come parla, da come si comporta, io ho delle reazioni allucinanti a volte, detesto tutto quello che è volgare, ma non solo da adesso, da sempre, perché sono cresciuta in un certo modo, sono stata educata con la bacchetta sulle mani, ho studiato dalle suore, tra l'altro anche un buon collegio dove ho imparato determinate cose che ho messo in pratica nella vita e mi sono state utili. Eh sì, ma l'hanno resa una sociale, però si rende conto. Esattamente, è molto triste la cosa, ma esattamente così. C'è qualcosa che qualcuno perlomeno che le piacerebbe comunque frequentare? Una persona che si presenti bene e che presenta bene, che ha un buon modo di parlare, che ha una buona educazione e quindi non c'entra nulla la carta di credito, mi creda, non c'entra nulla. Ha posto talmente tanti paletti nei confronti del mondo che le danno fastidio tutti, ma nella vita mai avuto qualcuno con cui è stata bene, anche solo una settimana, un giorno? Sì, certamente, che ha risposto ai miei canoni. Vabbè, so certo. Benissimo che uscirei volentierissimo a cena con persone che rispondono a quelli che sono anche i miei requisiti. Io probabilmente non risponderò ai requisiti loro, però purtroppo in questo tranello qua, perché sono voluta scendere a compromesso, ci sono caduta e non mi sono affatto trovata bene in assoluto. È stata, le ripeto, una lotta quotidiana con una persona con la quale pensavo di, ma il pensare di non mi porta da nessuna parte. Beh, l'avrà massacrato, povero uomo, io me lo immagino. No, io credo abbia massacrato lui, abbia massacrato me. Perché? Possiamo parlare nel profondo, glielo assicuro. E come la massacrava? Come la massacrava? In che senso? Allora, io non so, faccio l'esempio di massacro, per capire, così capisco. Io spero che lei possa condividere il mio pensiero. Io conosco una persona che comunque ha una buona attività, insomma, un buon percorso, un vedovo, 30 anni è sposato, matrimonio perfetto, 3 figlie laureate, ben inserite, bla bla bla. La moglie è morta, la moglie è morta, sì. Ora, le spiego, dottor Nicoletti. Allora, io questa persona, come l'ho conosciuta, è partita in quarta nei miei confronti. Io ho a distanza di una settimana, 10 giorni, già ho capito immediatamente dove andavo a parare, perché era delle cose che a me non piacevano, del tipo non si lavava pochissimo. Vabbè, è un puzzone, che discorso, è caduta male. Esattamente, vabbè. Ma non so. È un paradosso, nessuno piace un uomo che puzza. Esattamente. Ora, questo discorso qua, io siccome non lo so manco perché e per come, mi sono affezionata a questa persona qua, quindi sono entrata a tutti gli effetti. Ma ci si affeziona anche a un cane pulcioso, che discorso, è un po' il mito del barbone, che uno dice lo lavo, lo rifarò di lui una persona civile. Sì, ma a dei livelli arcaici proprio, arcaici, dove io che sono cresciuta in un determinato modo, a me non parevano proprio possibili. E da masochista ho portato avanti questa cosa per circa 6 anni, siamo amici. 6 anni? Certo, 6 anni, guarda, le assicuro. Ma in 6 anni non potete dirgli fatti la doccia un po' più spesso, no? No, ma guardi, a fasi alterne, perché questa persona qua oltretutto ha contribuito anche a cambiarmi la vita in peggio, perché mi ha anche costato dei soldi questa persona per le varie traslochi, varie cose. Mi sono fatta convincere ad andare a casa sua, una casa di 300 metri quadri, 350 metri quadri, un centro residenziale, bla bla bla, tutto quello che ne è, e io sono entrata in quella casa. Ed è rimasto immutato, la casa è rimasta immutata per i 3 mesi che ci sono state. Mi correva dietro addirittura con il coltello, tanto litigavamo. Non so se mi spiego. Vabbè, questa è una situazione pericolosa comunque. È una persona... No, è una situazione io pericolosa. Io lo esasperavo, dottor Nicoletti, io lo esasperavo, perché so benissimo riconoscere... Sì, lei un po' trita tutto, lo è. Mi sembra di intuire. Bravo. Però lui, anche lui non era proprio uno stinco di santo, se non, assolutamente non si tira no, il coltello. Il progetto iniziale era quello di, io ho sempre detto, costruiamoci un qualcosa insieme, ti togli sta casa, la dai alle figlie, non conta più niente, dai tu il cane e ce ne andiamo in un appartamento di 100 metri quadri dove ognuno mette del proprio. Ma lui magari stava bene in 300, perché doveva andare in 100 metri? Comunque sia, il fatto è che io dopo 3 mesi dalla disperazione sono andata a finire da Roma a Santa Marinella, perché non mi potevo più permettere un appartamento a Roma che mi aveva lasciato lasciare, ma fatto ritornare con tutti i pietismi del caso, mi è costato 1 mese e mezzo, 2500 euro in un residence. Sono tornata a casa sua peggio di prima. Ma nel frattempo si lavava, no? Scusi, questo è il punto importante. No, non si lavava proprio. Io per principio, una persona quando mi rientra a casa, la prima cosa che fa, si lava le mani e se le lava anche bene. Ma quello che è drammatico, che io a volte ancora lo invito a cena e cose, poi ci litighiamo perché gli argomenti sono sempre gli stessi. Questa sarebbe stata, guarda, se fosse stata una persona pulita, innanzitutto pulita, sarebbe stata per me l'ideale. Ma scusi, perché comunque... se questo qua non si lava e puzza, perché continua a invitarlo a cena? Questo non capisco io. Beh, lo invito a cena a casa mia, ma io a casa sua non ci vado più, perché sono refrattaria. Perché è proprio zozzissima la casa, sì. No, ha le possibilità. Se fosse un povero, io guarda che ho passato 3 mesi, gli ho voltato tutti gli armadi, ho pulito sotto, mamma sopra, mia. Destra, manca. Un incubo. Cioè, ma proprio, io sono maniaca anche in casa. Ho detto riportiamo un grado di civiltà in casa e facciamo ruotare le cose. Cioè io non sono manco riuscito a fargli prendere una donna per pulire tutti i vetri di quella casa, cioè lo capiamo? Purtroppo ho un masochismo di fondo probabilmente che è... Vabbè, ho capito, ha avuto una brutta esperienza, questo l'ha fatta arrivare alla conclusione che non vale la pena... ha peggiorato quella che era già la mia posizione iniziale. Vabbè, è stata presa da una passione travolgente, lo ammetta. A lui? c'è una passione travolgente per lui. Certo, se no non si spiega. No, perché io quando l'ho visto la prima volta non mi è piaciuto, è stato Vabbè, gli ha dedicato sei anni di vita, no, gli ha dedicato. Ho visto la sicurezza affettiva, ecco, quello ho visto. Ho detto, voleva sistemarsi, ecco. No, assolutamente no, ho visto la persona buona, quieta, con un vissuto normale, con tre figlie, ne non parliamo delle figlie, parliamo un vero pietoso. Vabbè, lei prende un uomo sposato con figlie e prende ma il pacchetto. Ma come sposato? Vedovo. Vabbè, ma le figlie mica le poteva rinnegare una volta certo morta la moglie. Certo che no, ma sono stata una presenza opprimente, perché le figlie erano tutte fuori casa, tutte legalmente sposate, tutte ben posizionate. Ora, l'unica volta che io mi sono permessa, perché sono stata circondata dalla memoria trentennale per tre mesi, l'unica volta che mi sono permessa di togliere una cosa e spostarla, sono tornata dal lavoro la sera e l'ho ritrovata a posto. Dico, ma chi è che l'ha rimessa? Sei stato tu a rimettere? Non lo so, provo a sentire Valeria, forse per caso sei stata tu, infatti era stata lei, era venuta a casa. Era la madre, ci aveva vissuto 30 anni, deve capire. Ho capito, ma non può funzionare così. Vabbè, uno non ci si mette nemmeno in queste cose, però se sa già che esatto. Uno entra in un meccanismo consolidato, leggero come una piuma, mica. Mi è rimasto attaccato l'orecchio, non succederà mai più. Ma poi io non ho avuto una convivenza lunga, tre mesi e me ne sono andata. Peraltro lui nel frattempo si è anche ammalato in maniera estremamente seria. Ma è cambiata la sua vita? No, è rimasta immutata come prima, non è la sua vita, non ha cambiato nulla. Vivo? Che si tenga la sua famiglia. Ma è ancora vivo lui? Certo che è vivo. Allora non vivo, era tanto seria questa malattia, sei vivo? No, molto seria, guardi, estremamente seria, ma molto, molto, molto. Ma io gli auguro lunga vita, guarda che poco, l'ultima volta che abbiamo litigato è stata la mattina di Natale, perché io gli portavo come esempio un'amica che per caso ho incontrato in un centro commerciale in Roma e mi ha spiegato come si era evoluta la sua di vita negli ultimi mesi. Io ero estremamente invidiosa di questa amica che era riuscita a... Io manco sono riuscita a fargli pulire i vetri in una casa, capisci? I confronti con le amiche poi non sono mai quello che... Non sa mai con chi si relazionava, cosa ha dato in cambio. Vabbè, lei continua a insistere. In bocca al lupo, le auguro di dimenticarsi l'uomo che puzza, trovarne uno che non puzza. Che ne so. Magari. Bocca al lupo, buon viaggio, mille, a presto. Grazie mille, saluti affettuosissimi. L'audiolettera di oggi riassume un genere di audiolettere, un genere che io continuo dando fede e onorando. Una sorta di prevalenza scientifica rispetto alla massa di lettere che ci arrivano, come quello che probabilmente interessa più la parte femminile delle viaggiatrici di questo treno. È il solito antico, annoso problema sul quale io non ho nessuna chiave di soluzione, ma visto che me lo proponete, mi sforzo. Qual è la domanda? La domanda è sempre la stessa. Ma quest'uomo probabilmente non sa che lui mi ama, non sa che lui può prendersi, anzi deve prendersi delle responsabilità. Quest'uomo non si sta accorgendo che io lo amo, che per me è importante. Quest'uomo naturalmente è un eterno bambino. Questa è naturalmente la brutale e perfida sintesi. No, ma il messaggio di questa nostra ascoltatrice è molto più articolato. Ciao Gianluca, anche io come te mi trovo spesso a dare consigli d'amore ad amici. Ed è raro che mi sbagli nel giudicare una persona, ma quando si tratta di analizzare i comportamenti di chi invece mi piace, di colpo divento cieca. Perciò questa lettera non è tanto una domanda, quanto una richiesta. Vorrei che tu mi dicessi ciò che forse, in fondo, già so, ma non voglio ammettere neppure a me stessa. Ho conosciuto un ragazzo. Non succedeva da tanto ed è arrivato nel momento in cui mi sentivo emotivamente pronta per una nuova relazione. Lui, a quanto pare, no. Sono passati 5 mesi dal nostro primo incontro e da allora ci vediamo una volta a settimana, sempre durante il weekend. Durante la settimana è difficile conciliare gli impegni lavorativi. Sempre a casa mia, sempre dentro quelle quattro mura che sembrano tarpare le ali ad una storia che io vorrei veder nascere, ma che lui rifiuta. Cara mia, devo dire che capisco e comprendo quest'uomo. Trova una casa accogliente in cui passare i suoi fine settimana, probabilmente stanco da giorni e giorni di lavoro, di panini mangiati in piedi, di corse da un treno all'altro, di riunione con i colleghi, probabilmente se vive solo anche angustie e tristezze di un monolocale nel quale deve farsi da solo i lavori, deve pulirsi da solo il bagno e la cucina, magari dorme in un triste giaciglio improvvisato, i suoi interlocutori sono la lavanderia a gettone a cui porta mutande, calzini e lenzuola ogni tanto, ma ogni 5-6 mesi probabilmente, o il negozio di generi alimentari in cui compra le porzioni monodose da uomo single, la tristezza e le lunghe serate davanti alla televisione a guardare i telefilm. A questo punto quest'uomo ha trovato una sorta di oasi felice, una donna che l'accoglie dal venerdì sera, gli fa trovare una bella cenetta pronta, un letto caldo, lo accoglie, lo coccola, lo accudisce, lui può farsi un bel bagno caldo, lei magari gli lava la schiena, gli versa il bagno schiuma profumato, lo asciuga, gli mette anche il borotalco addosso come si faceva ai bambini. Poi tranquillo, dopo aver mangiato e ben bevuto, si corica e magari se la trova anche calda vicino e può anche averne una sorta di piacevole commercio carnale, commercio, cioè lui dà la sua passione in cambio di tanta dedizione. Poi si arriva al sabato, perché il sabato mattina non deve alzarsi presto, uscire, andare a spasso, ma che domande? Il sabato si rimane a letto, lei va a fare la spesa, torna, prepara un bel pranzettino, si rimangia nuovamente, caffè, ammazza caffè e poi ci sta bene un altro riposino. Il riposino probabilmente può arrivare fino alle 6:30, 7 di pomeriggio, dove andare a quell'ora? Le strade sono piene di persone, che noia, che fatica. Prepariamo qualcosa di buono per cena, magari ci guardiamo un film in televisione. E così passa la serata. Il sabato notte, si sa, è la notte dedicata all'amore, quindi c'è una sorta di metafora di un incontro coniugale, quindi perché ti lamenti, è come fanno moglie e marito nella migliore tradizione. Ci si alza la domenica mattina, ci si alza, ma ci se la prende comoda. La domenica è il giorno in cui magari si deve preparare al lavoro il giorno dopo. Si sta un po' assieme, si mangia qualcosa, si prende un caffè, un dolcetto. Comincia ad entrare pomeriggio, beh, è ora che vado a casa mia, sai, devo prepararmi il lavoro per domani. È passato un fantastico fine settimana. Cos'altro vorresti di più da lui? Si presenta a casa mia di sera tardi. Ormai sa già che mi troverà con il broncio pronta ad iniziare la solita discussione sul perché non possiamo andare al cinema o anche solo a fare un aperitivo insieme. Ma ormai sa anche come prendermi per addolcirmi e per rimandare il litigio ad un'altra volta. Ad un'altra serata, o meglio, nottata. Tra una coccola ed una chiacchiera ho rimandato per 5 mesi il problema, accontentandomi di quelle 24 ore da coppia. 2 settimane fa gli ho dato un ultimatum. La prossima volta che vorrai vedermi dovrà essere fuori da questa stanza. Da allora, silenzio. A volte mi ritrovo a sperare che non si faccia mai più sentire, per non dover scoprire se sarò in grado di mantenere io stessa l'ultimatum che ho lanciato. E invece, so già che alla prima serata di noia ricomparirà. Ed io non so se potrò, se vorrò mantenere la mia posizione. E non c'è niente di peggio di lanciare un ultimatum e poi non saperlo mantenere, vero? E certo, ho capito, sei stancata. Non capisci perché quest'uomo, una volta passato questo piacevole intrattenimento del fine settimana, non accetti una volta, non so, di andare al cinema con te, di uscire a mangiarvi una pizza fuori, ma semplicemente di fare 2 passi, di andare a fare un po' di shopping. Non dico andare un fine settimana fuori e portarti magari, non so, in un bel agriturismo in montagna, o portarti al mare, portarti in un bel posto, che so, una città d'arte. Non capisco perché, non capisco, tu non lo capisci, io lo capisco. Evidentemente quest'uomo o è un uomo sedentario, e ti dico la migliore delle ipotesi, e quindi ha trovato in te quello che probabilmente si è lasciato alle spalle dei momenti della sua fanciullezza e della sua adolescenza, una mamma che lo accudiva in tutto e per tutto, con la circostanza additiva che oltre ad essere mamma sei anche amante. Quindi lui non potrebbe chiedere di meglio. Questo è per farti un quadro. L'ipotesi che in realtà tu ti sarai già posta, e ti dico perché a tutti gli amici e le amiche a cui avrei posto la questione te l'hanno risposto così, che in realtà lui abbia un'altra persona. Tu mi dirai, ma di solito chi ha un'altra persona il fine settimana sta con la legittima moglie, fidanzata, donna ufficiale, e usa per l'amante i giorni intermedi della settimana. E no, cara, non è sempre così. Questo è un modello di famiglia tradizionale antico. Lui potrebbe avere un'altra donna in un'altra città. con l'altra donna si vede durante la settimana. Potrebbe avere una storia d'amore con una collega d'ufficio, che magari anche lei è sposata, fidanzata, vive una storia d'amore ufficialmente clandestina. Quindi lui non vuole rinunciare alla collega, della quale usufruisce ad ampie mani di tutti i favori carnali, sessuali, vertiginosi durante la settimana, e il fine settimana si riposa dalle fatiche amorose, viene a te, mangia, beve, dorme e se ne torna a casa tranquillo. Potrebbe essere anche questo. Messe insieme tutte queste cose, tu dici gli ho dato l'ultimatum. Che ultimatum gli hai dato? Questo tanto, come tu un attimo ti chiama e rispondi subito e già sei lì pronta a fare il soffritto e a buttargli la pasta nella pentola, quindi naturalmente non ne potrai più uscire, perché evidentemente anche tu hai un vantaggio da questa storia. Scusami, vedela in positivo, hai la settimana libera, puoi fare quello che vuoi, ti diverti, esci, nessuno ti controlla, perché non credo che sia uno che ti sta addosso per sapere che fai, ti fai i fatti tuoi. Il fine settimana rinuncia al cinema, rinuncia alla pizza, cioè tutta la settimana, e giochi a fare la massaia, giochi a fare la moglie, giochi a fare quello che in realtà nei sogni più indicibili di tutte le donne c'è, di fare la moglie, avere un uomo da servire. Tu il fine settimana servi quest'uomo, il lunedì ne sei salva, sei tranquilla, riazzeri tutto e fai la donna libera, fai la donna che vive il suo tempo. Quindi hai una splendida possibilità di vivere con lui quello che avresti comunque con un uomo che ti sposasse. Quindi puoi benissimo vivere l'euforia di essere sposata 2 giorni a settimana e essere libera il resto del tuo tempo. Che vuoi di più dalla vita? Ma tientelo, dove ne trovi un altro così tranquillamente e così sicuramente felice di farti felice, anche se soltanto 2 giorni a settimana? Si avvisano i viaggiatori che il treno da delle 11 ripartirà domenica prossima dalla stazione di Radio 24. Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno da @radio24.it.